sempre. Ciao Gianni. Oh, ciao Gianni, mi hai sentito? QRM ne hai? È abbastanza Gianni, abbastanza. È una coppia di scatole. No, negativo io invece, lo sai? Tutto passo, il vento è spaventoso. Il vento è una cosa impressionante che sta facendo qua. Stamattina ho visto l'antenetto di Giardi. Andavano verso la parte dei carabinieri lì, no? In avanti. Le mie? Sì. Ci sono qua, buonasera, vacuari. Ciao Gianni, ma è frenata forte da allora? Sì. Si sta battendo il vento a, diciamo, a folate, così veniva, a folate. Cappa di roggia, avanti Eugenio. Ehi, ehi, domani lavorando sta. Sì. Torna una mattina. Sì, sì. Va bene, allora ci vediamo una mattina, va. A te ti interessa parlare il 48 oggi? A me? No, mi ricordo mai. A me mi interessa un 48, c'ho un anno a 28 io. No, credo, mi ricordo perché sono nel mio 48. Ma cosa stai dando? Si vuole un accoglio. E poi tu cosa vuoi? Cosa ti mette? Mi sono rotto le balle, mi metto un bracchietto. Quello che ho in camper, piccolino, quello che avevo prima, perché lì col filtro che ho non entra proprio niente, capito? Ma non vuole fare per quel casino del disturbi, stai dicendo tu? Vabbè, ma ti mando avanti Gianni, dai, se no facciamo un troppo ping pong. Ah, oh, vabbè, ciao G. E anche io un po' io ce l'avevo nella macchina questo problema, lo sai? Mi faccio un rumore allucinante. E avevo messo un capo grosso di massa, di quelli proprio di massa a terra che mettevano i palazzi, mi c'era più quei capi grossi grossi. E da quel momento lì non ho più avuto problemi. Ehi, vabbè, io ho messo questo filtro qua che me l'ha attenuato parecchio. Adesso con quel baracchinetto che ho piccolino non entra niente. Con la 48 entra, sì, risolve il problema. Va bene, grazie, vediamo domani mattina. Oia, che si dice? Che giornata oggi, guarda mia. Sta a posto? Aspetta, qui la passo la TV. Io avrei provato una radio un pochettino diversa, magari quella che stai usando adesso, giusto per vedere come funziona, mi sento lo fa anche con quella, perché la radio più buona è meglio è. Qua dici, con questa qua io a casa. Giusto, per me se lo fa anche lì, quel difetto. Sì, sì che lo fa, l'ho provato. Ma lo fa di meno? Sì, sì, lo fa di meno. Perché è più selettivo. Avanti Gianni? Oggi si è proprio demoralizzata questa cosa, non riesco a risolverla. Tu? Niente, vabbè, fa niente. Gloria, mi sento male oggi, mi sento veramente male, ragazzi. Che palle. Ma lì probabilmente tu hai anche problemi per stazionare oggi, capito? Anche quello influisce molto. E adesso chiedo a qualche autista se fa cambio l'antenna. Do la Turbo 2001, me faccio dare una di quelle di vetrolisina piccolina, capito? Se non vedrai, non è comparata. No, non per barca. La del Volvo, vabbè. Quelle con la carica sotto, mi sto dicendo, con la molla, capito? Quelle lì sì, è anche bellina da vedere, non è lunga, è 70 centimetri, va bene. Cioè, tu non mi hai mai dato retta, ti avevo detto di comprarti la Rem, la Minox, cioè la Minox della Sigma, che costa 42-43 euro, però è un'antenna di 70 centimetri e va un bel bene. Ma vedere se riesco a tararla. Capito? Perché stai vedendo un problema. Antonio Grodi avesse la tarata in macchina sua, solo che l'hanno attaccata adesso. Ma ce l'ha la tarata a perfezione, ce l'ho un stazionario. Ma sopra la capota della macchina se può far vedere. Ma è andato a parafare in verticale, come ti fai a funzionare a te? Non prende? Antonio Grodi ce l'ha sul parafango della macchina, dietro, perché c'è una cabrio. Giallo, ci sei? Ciao Marcella, sì, siamo qua. Boh, io da quel poco che ne posso capire, non lo so, la te l'avevo piazzata nella capota, hai centro capota nel coramiglio? Ma no, c'è solo una cosa, non funziona, vero Giallo? Io non lo so di adesso. Guardate questo. Ciao Massimiliano, no, secondo me, vabbè, il punto ideale è quella ciclocapota, ce l'avevo lì più, però quando non hai altri posti dove metterla, Antonio Grodi ce l'aveva per dire, nella Golf Cabrio ce l'aveva dietro, è andata benissimo, io l'ho sentito tranquillamente. Sì, ciao già. Ma dipende, se c'è una buona massa, sia dietro che davanti, secondo me è uguale. Ma il capo di massa, ciao Massi, perché il capo di massa ce l'ha bello grosso. Gli ho portato proprio a massa il camper, non va bene, la 2001 non va bene il camper, inutile. Mettici la PLC 1000, che è meglio della 2001. Sicuramente allora non c'è specchio di riflesso. Non fa specchio per l'antenna allora, se c'è il piano di massa, appunto. Non lo so, che cosa è? Come te mai fai stazionare la 5? Giallo, io non l'avevo bucata proprio da Ibis antenna. Mi ha detto ti fa una staffa dove hai lo specchietto e sei sicuro dello specchietto agganciato a cosa, al telaio, hai capito? Sì, ma lui c'ha perennemente stazionare troppo alte. Porca miseria, cioè, sono troppo alte le stazionali così. È positivo, lì no, io non so, chi te l'ha fatto l'impianto proprio lì, oggi? L'impianto di cosa? Del CB. Poi l'antenna che te l'ha montata lì? No, non l'ha montata nessuno, ho montata io l'antenna, ma il buco era a casa. Positivo. Avviti il coso di PL, quella boccola lì se va per la massa, se tu la appoggi non ti va a massa e quindi ti crea stazionare, perché mi sembra un po' strano, io con l'antenna lì ce l'ho uguale e quando l'ho piazzata era, si muoveva appena appena da nulla, ma proprio pochissimo, non era manco uno di stazionari. Ma tu c'è un modello vecchio, non c'è un modello nuovo, il modello nuovo non è che è andato così tanto bene già. Ma insomma, penso che come stazionali non le siano studiate, Massimiliano. Quell'antenna lì è studiata anche per andare sui canali alti, sul 45 e cose, per quello che tutti i camionisti la mettono perché vanno sul 45 d'estate e cose. Non lo so, è il camper che secondo me dà sempre problemi, ma a vita mi ricordo che ha messo un'antenna, tanto non l'ha messo nel camper. Rita c'ha la 2001 lo stesso, e ce l'ha dove ce l'ha Eugenio, e più o meno il camper è uguale, o forse uguale pure lì, oppure non è a stazionario. Perché questo qua? Come si chiama? Stefano si chiama, Marito di Rita. Tutti mi parlano di questa Rita e Stefano, ma cazzo, non lo riconosco, di punti che hanno il camper, non lo riconosco. Vabbè, comunque se lo riconosci, noi già li conosciamo oggi, niente, loro ce l'hanno l'antenna sul coso e stazionale non ne hanno, per esempio, poi non so cosa dirti, perché spendere soldi e comprare un'altra antenna e dopo scendi in gabbo, basta, mi sono rotto le palle. Giulio, ricordati di quella boccola che c'è. Sì, ma la boccola la ce l'ha, per forza ce l'ha. Posso venire, io qua quando l'ho piazzata, come ti l'ho piazzata, non si muoveva quasi nulla l'ago. Proprio in tutti i canali, poi, non era una cosa asciutta, non l'ho dovuta toccare manco di un millimetro, niente. Ma tu hai raschiato sotto? Nella capoccia, l'hai raschiata sotto? Sì. Io no. Un attimino, Io l'ho raschiata e poi gli ho messo un prodotto sopra la cappotta, un prodotto per antiruggine, e poi gli ho messo il mastice e poi ho messo l'antenna. Dopo il ricavatore, dopo no, Massimiliano, non ti credo, perché quando gli ho cambiato il cielo, perché gli avevo fatto fare il cielo, che me ne aveva dato tutto, ho fatto fare il cielo da quello di, come si chiama, tappezziere. Quando ho rifatto il cielo, che aveva smontato, ne ha smontato l'antenna, l'ho tutta pulita, gli ho pulito il perno, le ho messo CVC, grasso, questo e quello, e poi l'ho ripiazzato. Boia, positivo, dammi un secondino di bianco, Gianluigi, si riprende un attimo. Cazzo, adesso veloce, eh? No, ma se c'è quel pezzettino che va a stringere sotto, che è sdegrinato, già quello lì quando lo stringi, che comincia a grattare, già fa un massaggio quello lì. Io sono qua. No, io non ho grattato, Di la verità non ho grattato. No, lo devi grattare, Vince. Come il gratta e vince. Deve passare un po' di lana d'acciaio, qualche cosa che ho una carta vetrata. Lo so che tu puoi prendere la ruggine se lo gratti, però se non lo gratti non fa massa. No, ma sapete le lati, io ci ho messo il mattice per ammirarti, l'ho tutto vulcanizzato. Prima ci ho provato che andassi a me, tutto grande, poi ci ho fatto un travaglio. E io lo stesso. Prima mi ha messo un liquido antiruggine attorno e poi io l'ho fatto dove ho fatto l'impianto della macchina, gli ho fatto fare il buco perché non mi fidavo io, ma ho detto non sciagli di bagli che era buco sul casino. Ma l'ha fatto lui, mi ha detto guarda io non c'ho strumento per misurare il stazionale, non ti preoccupare perché ce l'ho io. Mi ha praticamente il filo, me l'ha tutto quanto, mi ha rotolato questo adesivo che ha la gomma a piuma per non fare rumore. Era tutto riempito così di questo adesivo con la gomma a piuma, e tanto è vero che non si sente nemmeno quando fa le curve, niente. Quindi l'ha tutto attaccato, fatto, messo tutto quanto perfettamente, una volta ci ha dato il piede, io sono andato, mi sono stazionario e cazzo ci muoveva appena l'acqua. E adesso allora faccio una cosa, lunedì mattina smonto tutto e raschio bene, vediamo un po' come è sta cosa, vediamo un po' se Massimo è libero, mi posso dare la mano a Massimo. Massimiliano, portati lo strumento così mi misurate stazionare. Massimiliano, poi c'è una chiamata al telefono, già lui prima. Vediamo. Sicuramente il tuo rimedio c'è, senza ombra di dubbio. Ogni cosa ha un rimedio, per poco di fa. E ecco di Aldobaro, ma non sa bene chi si viene venduto il campo, non sa bene nel frauto. Stava a fare una ricerca su internet per vedere un poco chi ne sa, chi non ne sa. Dimmi, scusate, non potevo riprendere. Ho detto che ti stavo chiedendo, Gino, se vuoi dargli una mano, che mi vuoi smontare tutto. Pregando? Gino. Lunedì mattina, se non hai niente da fare, mi, attenzione, prima lo travaglio. Sono, sto lavorando, lunedì mattina, scendiamo la... Dici, ma spiegami se è così. Per me, cioè, è una mia supposizione. pensa che lui è arrivato blu lì, che va attaccato al pezzo di ferro. No, sicuramente, non sta facendo massa, non lo so. Non lo so. Questo invece, oggi mi sta venendo un dubbio. Il cavo dell'antenna, quando tu hai stretto dietro, diciamo, la basetta, dove l'hai fatto passare? Ma non è che sta toccato da qualche parte, sbucciato, schiacciato? E c'è anche quello, scusami, c'è anche quello lì. E lì dentro c'è quella guarnizione con quella boccoletta che fa in modo che non tocca quel bullone che del palo caldo, ma toccare la massa. No, adesso guarda, non lo so, le idee ce ne sono tante, cioè le supposizioni che possiamo fare a manetta, se non la sbottiamo e la guardiamo. No, il capo passa, dove passa tutto il cablaggio del camper. C'è proprio la guarnizione in gomma bella nuova, grossa, quindi non tocca da nessuna parte, Massimo. Non tocca, sei sicuro al 100%? Hai provato col tester a vedere se ammassa quel coso? Scusate, vado in bagno un secondo, riprendi Massimiliano. Veglia, oggi stavo dicendo, hai provato se c'è la massa, sì, col tester? No, non ce l'ho il tester, non ce l'ho. Lunedì dovrei portare il tester e coso, come si dice, ma è... Rosmetro. E quello ce l'ho io, ma quella è una cazzata comunque oggi, puoi passare anche da quell'elettrauto e te la fai controllare se nell'antenna dentro il campo, se sta pieno lo puoi guardare, con un tetto ci vuole poco a controllarlo, se c'è la massa. Vabbè, lo controlliamo noi lunedì, dai, non è un problema quello. Vabbè, lunedì risolviamo il tutto. Risolviamo il tutto lunedì, dai. Due occhi in più fanno sempre comodo. Vabbè, riprendi Gianni. Eia. Ma lunedì sera o lunedì mattina? Lunedì mattina, perché abbiamo avuto la mattinata e poi io la sera vado a lavorare, capito? Sono a casa fino alle 4. Posso rimanere fino alle 4 a casa, non ce la facciamo. Vabbè, vabbè, gara. Vabbè, comunque, auguri, va, speriamo che risolvete il problema. Ciao, saresti venuto anche tu, non c'è problema. Ma fatevi così veloce e esci di una gazzata. No, bisogna controllare, perché non c'è, c'ha ragione Massimiliano, bisogna controllare il cavo si ammassa, se c'è la massa dell'antenna, perché quell'antenna lì lavora a massa, capito? Lavora a massa quell'antenna, se non va a massa non hanno. Ma speriamo di risolvere, ti ripeto, due occhi più fanno sempre più comodo, perché poi io faccio proprio, piazzano gli altri piazzano tutte le cose, andano in tutti i veri, e io piazzo la cosa, manda sempre mai. Un attimino il cellulare, un attimo. E io positivo, io vi lascio, dai, che è pronta la cena qua, iniziamo a fare qualche carichetta, lo stomaco inizia a frontolare, dai. Ci sentiamo dopo se ci siete, dai, passo il correttivo per causa carica. E io Massimiliano, vai, mangia l'agnone, va. Ci sentiamo, ciao ciao, buona carica. Avanti, San Luca, siete entrati. Genio. Vabbè Massimiliano, ti salutato, va, ci sentiamo. Ok, ci sono. E Gianluca, è andato via Massimiliano a fare il carica, dai. Ah, scusa, non l'ho sentito allora, c'era un attimino. Ciao Matti, buona carica, buona cena, ci sentiamo dopo se ne voglia, già siamo qua. Sto guardando poi il televisore, avevo una certa sera di in tour de force. Una partita mi è sembrata di vedere sulla T4. No, non ho manco guardato. Io comunque ho una ex collega che il marito si è comprato il camper, quando è andato in pensione si è preso il camper. E praticamente l'antenna ce l'ha messa proprio sopra la tettuia, ne ha fatto l'elettrauto, ne ha fatto tutto l'elettrauto, l'ha messo sopra la tettuia e ha messo un filo di massa che andava alla carrozzeria e dice che va bene. Hai capito che Paolo, quello che faceva il finanziere? Amico mio, mi hanno fermato: Gianni, finalmente dal tuo sogno, come contenti, a Torino lo desideravo da tanto tempo, lo sai. Ecco, quando ci andiamo in pensione ce lo prendiamo, solo che adesso non possono usarlo perché c'è la Torino che non sta bene, quindi fin quando lì ci sarà in vita non possono spostarsi. Sì, no, ma già lo usano, cioè con i cognati vanno analizzate con i cognati. Ma non possono fare un sabato e una domenica per dire stare lì, capito? Perché c'è la madre. Ha detto lì, ma è tutto lì. E voleva un lineareto, voleva. E ha detto, guarda, non ne ho, io non ne ho, comunque se vuoi te lo puoi dire da Inter, però no, se me lo buscavi qua, questo, quell'altro, poi non so se l'ha messo, se non l'ha messo. Sì, avanti a gente. Ma di chi c'è l'antenna di me di Finivino? Hai visto l'antenna che c'è? E chi? No, del camper. No, non ci ho fatto caso, ho visto il camper, penso dopo. La verità non è che ci ho pensato a dire che aveva il quel baracchino, lo volevo mettere, per dire, capito? No, ce l'ha. E ne bene allora. Ah sì, che ho parlato una qualche volta, sì, come no? Sì, c'è ragione, sì. E a quella che ce l'ha. No, è tu lui che ce l'ha. Bello. Oh no, mi sono ricordato, mi sa bene che è chiacchierato. Tu ci va bene. Bene, ci va. Facciamo per cento. Esci da spara sul piegato. Ma non si è buccente, raga, mi sciuga in lunga. Non più, ma cosa fai? Ma dico, tu stai andando di dito, non ci devo rimanere da sola. Perché io dovrei trappare, però... Mi ha fatto un po' male a metterti sulla cappotta, perché cazzo si deve andare in qualche punto alto tu. Eia, rispondi a me però, ma solo noi ci siamo rimasti, va bene? Tambo, Eugenio si deve essere allontanato lo stesso, Eugenio, sì. Sì, siamo rimasti noi. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare, siamo solo noi. Comunque, locale quando va, proprio fammelo sapere. Guarda, io stasera sono fatto a franchedire, lo sai, ma non sono fatto a picco. L'altra mattina sono passato perché sono uscito a piedi e proprio stavo passando e piano piano guardando, c'era la porta aperta, quel pancone, c'è tipo stile... come tipo... E sono? Se ne sono no. E sono a casa. E la mamma mi sa come sono in casa, attenzione Gianluca. Eugenio. Perfetto, là ci sono. Scusa Gianni. Sì, figurati. Cosa che succede? La mia famiglia. E io no. Cambio turno per domani. E vabbè. Uno va di là. E tu dite. Sono prendendo a internet, no? Che so cosa mi lo chitto mi vai tu? Non voglio vegliare. Beh, due. Ma bisogna stare attenti con quelli che escono con pochi fatti. Bisogna vigilare, stare attenti. Ci sono da 2, da 5, da 7, non lo so. Vabbè, ma io l'uso per ascoltare così. Infatti, ma c'è se vuoi, lo penso. Vedete proprio per questo motivo. Fare ascolto va bene. Come va? Metti un gatto a quanto? Sì, c'è 59, 64, chi ti dà l'auricolare con il microfono in archetto, chi invece ti dà il palmarino piccolino, se non ti dà tenuta e coscia di manco. Questo è 4, vedi? Questo è della Polmar, però si chiama €79. B4 sempre VU, bello, sbaglio, 156 canali memorizzabili, funziona, aspetta, funziona dual switch box, tiene funziona frequenza canali, adesso vedete batteria da 1600 mAh, vedi, questa è una cosa che uno deve stare attento, anche la batteria da quanto ce l'ha, 4 watt questo qua è. Ma tu devi cercare Baufeng, quelli sono le civitture e cose, sono tutti quanti a meno preso che gli altri, Baufeng. Guarda, non è Baufeng, però è molto simile a vederlo come fatto, capito? Ma che tue sigarette? Ed è la polma come ricezione, no, c'è un bel desiderare, non mi viene lasciato. Non lo so, Gianni, no. Metterci un po' di spray, prima soffia, dopo li metti lo spray e vedrai che va bene, sarà che granello di polvere. No, io diciamo che l'ho avuto il Pullman ricevitore e non mi ha soddisfatto molto. No, adesso sta andando. Come non l'ho tirato bene, perché questo c'ha la portante che era di schiacciare e tirare verso di te per avere l'importante vita. Ah, ecco. Allora, io ti ripeto, quel Pullman l'ho avuto, un Pullman ricevitore, ma la ricezione è stata migliore quella di altri ricevitori più piccoli, però si sentiva meglio. Ho avuto sempre gli aerei su Kenwood, Icom, per roba non di Siribelli, proprio professionale, diciamo portatilini che costano, se però uno di portatilino così era stato comodo. Adesso sto guardando già, ripeto, di diverse tipologie, dopo il prezzo varia in base anche agli accessori, perché adesso infatti non ho capito bene, c'è gente che lo fornisce con un accessorio, c'è gente che lo fornisce con un altro, la radiolina è spiccicata, perché sto guardando le caratteristiche, la funzione principale, comunque sia, guardo i watt, la prima cosa, la batteria adesso anche è una cosa che stavo prima dimenticando, la batteria se te lo specificano da quante milliampere è, sia litio come è, appunto se ti danno qualche optional, perciò questo anche con la custodietta piccolina, con la clip per appendere la cinghia, ripeto, c'era uno che c'era per esempio nella fotografia, lo vedevi con l'archetto in dotazione e la cuffia per parlare con l'effetto box, l'altro invece stava il palmalino piccolo per entrare lì con lo spinotto e tenerla in mano. Quello mi hanno dato, esattamente. E il coso per prendere la tracolla, il laccio da attaccare. Poi la cuffia, carica batterie e la batteria. E l'apparecchio con l'antenna. Boh. Quale specifico, il caricabatterie è l'uso per lavorare con l'antenna, giustamente. Opzionale intendo dire che potrebbe esserci la custodia con la clip, potrebbe esserci il microfonino auricolare a schetto, si potrebbero, no, di altro cosa si potrebbero fare, a meno che non sono così specifiche, tipo un'antenna magari più corta, un'antenna lunga che ha diverse caratteristiche magari di frequenza, quello sì. Se no, se dopo la radio fa quelle bande con quelle frequenze, anche dare un'antenna che fa altre cose non avrebbe senso, non avrebbe proprio senso. Però magari ti hanno due batterie, per esempio, capito? Batteria ricarica e scarica, scorta e si scarica e ci metti l'altra. Quello sarebbe molto, molto utile. Io invece Vittorio, la batteria non si scarica mai perché la tengo sempre attaccata alla corrente. Quando vuoi ascoltare lo attacco e via, però non è così la batteria perché c'è la corrente, capito? La batteria è sempre carica. Bravo! Un complimento! Sai che non si deve usare qualsiasi cosa alimentata con la batteria, anche il computer portatile. Quando li uso in casa io il portatile, voglio usare il portatile, che devo usare l'alimentatore, il caricabatterie in questo caso, la batteria la escludo sempre, capito? Oppure la carico, la faccio caricare, che tanto me lo dà negli indici, la carica, lo sistema di vice al 100%, lo stacco, uso il computer, lo faccio arrivare quasi esaurito e dopo lo riattacco e lo faccio ricaricare. Ma se devo usare per ore e ore e ore, che non c'è così, è consigliabile staccare la batteria, Gianni, se le stai alimentando? Già lo so che è così, già lo so, ma io ce l'ho 2 anni, il computer, grazie a Dio, la batteria va sempre bene, non si è bruciato così, va bene. Perché io non so cosa faccio, a volte di notte me lo stacco da qua dalla stazione, me lo porto dentro in cucina, e me lo attacco in cucina, quindi la batteria si scarica, quindi se tu la lasci attaccata alla corrente, non ho fatto che ricaricare la batteria tutto lì. Avanti, chi c'è rimasto ancora? I due? Di già ti ho spostato di sera. No, no, sono destinazione. Cabagaba. Anda bene, anda bene. E perché un giro ti trova adesso domani ve l'ha trovato la tagliata? No, già entra sempre da una parte all'altra, adesso vediamo dove attacca la nave, infatti lui intendeva il suo motivo. Dove ci sentiamo prima per telefono, se non ci vediamo, perché secondo dove sono non lo vedono. Ma lui va dove c'è la nave, va a scaricare, diciamo, i rimorchi, così? Sì, lui va dove, quando è turno va dove c'è la nave. Io invece posso essere da una parte all'altra, non la vedo ancora. Tu sei come una farfallina da una parte all'altra. Sì, certo. Oggi per esempio ho avuto difficoltà a attaccare da una parte, ha attaccato giù, fondo. Provate a affondare? No, anche affondare è dove attaccava la nave francese, che non si attacca neanche più. La nave per Marsiglia e per Propiano non si attacca più, sta attaccando sempre all'Asi. Ma quando è fatto un casino non riesce a affondare, ne faccia tutti i danni dei ribesci per farlo più profondo. E dopo non ci attacca più. Ma dove stai dicendo, dove c'è la teleferica? Ma sono andato a te lo ricordi già lui. Lì attaccava la nave francese, dove c'è tutto corretti coatto che non si può entrare. Mi stanno facendo il lavoro adesso, stanno tutto là lavorando. Sto facendo manutenzioni e ristrutturazioni lì alla banchina. Non so di specifico cosa stanno facendo, ma sto travagliando, te li dico. Ecco, quello già è buono, quello va bene. La banchina è molto ristrutturata, c'erano dei punti con la banchina che mi era male di ridurre. È pericoloso. Comunque con la nave francese sono salito anche a consegnare, c'erano 3 ragazze facendo i letti, io buongiorno a tutto il mondo, e sono messi tutti a ridere, le francesine. Equipaggio? Allora, stavano facendo le cuccette, no? Quando sono salito io. E stavano pulendo, facendo. E trovano un magazzino dentro, tutto attrezzato, muletto, tutto tanto vanno. Hai grande ragazza e non mette la vicinati? E tu li vogliamo i bocchi di cose, è la fantasia. No, io se ti conosco, io ti conosco, ho un modo di ridare. Se ce l'ha fatto una cosa russa, come che mi rispondisci? Ma quando vai lui tu devi avvicinarsi. E come ci dai di rispondere? Quando gli ho detto buongiorno a tutto il mondo e si sono girati, hanno fatto il servizio tutte e quattro, ma bellino veramente, tutto l'equipaggio con quelle ragazze. E loro hanno portato acqua, bibite, tutta questa roba. Bernardette, Penelope. Ciao Bernardette. E così si chiama, già lo conosco. Poi si chiamava Sofì, quello non lo ricordo, perché l'ha chiamata la collega Sofì. Che ti fai? Che ti fai? Allora, Wolfgang R5. Così è. Wolfgang e Lucian. Questo qua. Wolfgang UV5R, così è. C'è anche il Wolfgang UV3R, c'è più piccolo. Penso che dipende anche per il radar, ecco, di uscita, boh. Le batterie sono a litio, sono buone. Dipende dalla batteria, che dal 3 al 5 c'è una notevole differenza. Vabbè, questo 3 per esempio dice con il sistema DSP, e questo non è male. Però troveranno anche con la base magnetica da attaccare, 69 euro. L'unica cosa che presenta la differenza del VR5R alla tastiera, invece lì tastiera non è, devi fare le doppie funzioni con il VFO, con il pomellino delle frequenze lassù, capito? Invece quello puoi impostare direttamente dalla tastiera la frequenza, e questa è la differenza. Quindi vabbè, posso avere un po' di manualità anche senza tastiera. Riesci a fare? No, a me non mi piace la tastiera, già. Quindi vabbè, io per dire tastiera non ne ho. Vedi? Mi pare uno di questi walkie-talkie che va giù e vuoi. Di Lambrunti, papà vedà, dalla mansarda in oca. Ma io non lo uso per me, io lo uso per ascoltare. Come andiamo? Con le gambe. per un attimo, sono in corso. Mi può fare 2 minuti. Quando sono in buco. Ma dove sei già? Fatto torre? Sì. Penso di sì. Ehi, ho detto in settimana già, ci ho detto, forse domani o dopodomani, però ancora non mi hanno detto nulla da dove devo andare, capito? Vabbè, non c'è problema, se capita, perché a venire apposta non fa, già lo sai che ci sono centuchi che controllano. Ah? A venire apposta non fa, se capita in zona sì. Dove sei domani, in giro? Potrebbe essere, sono in giro, sì. Vediamo, dai. Ci sentiamo per telefono e ti dico con certezza. Perché domani non c'è manco la capitaneria. Se quando vado in capitaneria, stamattina ti ho chiamato quando ero in capitaneria per vedere se eri lì in zona. Già ci troviamo, prima o poi ci troviamo, già si incontrano a fare i banini, andavi devi. Ecco, vediamo chi com'è l'affittizio. Allora, se vuoi fare i panini ragazzi in negozio e gli dici quando viene Gianni per cortesia glielo consegna. Ecco, io chiedo, la busta non l'ha lasciato, hai fatto un yoga. Cosa c'è? Ma stai combinando? Sto cambiando baracchino. Aspetta un attimo. Sì, se me non fugge nessuno. Com'è il vento già lì da te? Il vento sta facendo sassi. Oh, certo, sono in cuffia. Sì, comunque c'è nera di vento. Stasera c'è il vento e anche molto freddo. Vento freddo, c'è cavolo. Da questa mattina tardi si è buttato forte, mamma mia. Infatti da Giovissa, di Giovissa Gianluca in Chibi a Luciano Mari, con lui. Ascolti, sì. Sì, sì. Certamente che ti ascolto. Ah, non ho capito. Certamente che ti ascolto. E sono con l'apparecchio omologato, non è mica mio questo di Giuseppe. Locale. Questa canna normale, questo negozio, l'ho fatto io. Come sta uscendo bene, sì. Tutto pu. Pensare che pu, non è possibile. Luca, come lo senti? La mia gamba è molto da scoppio. Esagerato, se usciva bene questo, cosa stai dicendo? Aspetta, magari non sei tu. Sono qualche sovramodulazione, non lo so. Prova. C'è NP1 e NP2 in quell'apparecchio che c'è tu. Vai un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non è quello. Non è quello. Boh, mi sembra strano a me. Aspetta un attimo, sono venuto qui. E te lo dico subito qual è il problema, che non è possibile. Allora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hola. 1, 2, 3, 4, aspetta un attimo, ho capito qual è il problema, no, l'hai inventato, aspetta un attimo. È come se avesse una bombetta, pum, scoppie. E l'hai inventato, aspetta un secondo. Dopo adesso com'è 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Gianni. E io. Allora. Attacchiamo Venoga, Gianni? Ma non come sto scendo adesso? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Ma un po' bassino, sì, se mi ricordo bene il segnale tuo, era un buon segnale. Qua mi stai arrivando Santiago di 7 abbondante. Adesso com'è? Buona, 5, 6, com'è? 8, 10, com'è la radio? fa più, non lo fa più. Ho detto, mi sta arrivando un sette abbondante, capito? Amici positivi, modulati. Ok, già va bene, allora che mi basta. A voi, basta a parte. Se un baracchinetto così, io adesso il tuo segnale me lo ricordavo molto molto più forte. Non è male, se lo sai tu cosa stai facendo e ti rendi conto che è fattibile, vuol dire che va bene. Va bene, il fatto che mi senti di radio buona adesso, evidentemente poco fa era un alimentatore che aveva dei problemi, il fatto che riesco bene adesso, che non fa più il difetto di come prima. La radio è troppo normale, un po' bassina di radio, quello già ce l'ha un pochettino, potresti migliorare un pochettino, se possibile, come radio, quello è un po' bassino, avanti Gianni. Era a far mettere a letto il bambino. Poi via, se no non mi va diretto, ci vedi dopo se non mi va diretto, ma io ho bisogno. Ah, ti ha fatto bisogno? Beh, mi sono stato a letto, sta a vedere il televisore fino a tardi. E l'ho visto in funzione, eh? Chi? Subaru. Ciao Luca. Come d'accordo lui, ripeto, grazie a Grubbisi. Domani me lo lascio in negozio, quando va a farci i panini, e poi io te lo porto a Sassa, allora, tutto, appoggiando qua avanti Luca, capito? Faccio così, tanto viene in negozio, andiamo a farci i panini. Quando va a farci i panini, lo lascio la commessa alla cassa, e dice, deve dire una, Gianni, per cortesia. Ecco qua, tu dici. Guarda lui si è impegnato, boh. Io allora, Gianluca, devi salire a Sassari la prossima settimana, lunedì ci sono qua, martedì no, poi mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica, lunedì sono a casa. Sì, allora non c'è però, io devo salire, però aspetto la conferma, capito? E con l'occasione facciamo anche questa cosa qui, capito? Tutto lì. Dai, salve un attimino giù che le metto in macchina. Pistole, adesso lo fai i nostri, nel caso si mette in capo ci spara. Cosa? Non ho capito. Perché c'è un CB che ha 5 pistole adesso, sono fatti da cagare, se si incappa ci spara anche a noi. E perché ci deve sparare? Sì, sì. Io sai che ormai la mentalità della gente, si è venduto gli apparecchi e si è comprato le pistole, quindi... A un certo punto bisogna vedere come vanno le cose, adesso ogni poco non mi avvicino più a casa sua, faccio più che non lo conoscermi. Ah, io già ho capito chi è. Perché cerchi la gente che non ti sta cercando? Perché ti ho cercato forse un po' avvicinante. La gente si pecca, ma Iaco. E subito, buonasera. Ciao, anche tu ce l'hai la pistola lì? Sì, in mezzo alle gambe c'è la pistola, funziona ancora, grazie a Dio, fino a 45 anni, anzi, non 50. Ma 60 anni, grazie a Dio, spara ancora. Sì, ma tu fa ruggizia, pensala così tu, non ti preoccupare. Grazie a Dio ci sono... le urne che cercano di numero a pagamento, quindi lo sai come stanno le cose, il mancato del lavoro faccio anche quello, non mi interessa proprio niente, faccio il latin lover, faccio quando qualcuno gli serve, qualche donna che gli serve il salsiccione, glielo do subito, o fa la strategia, o se no glielo do anche il tatto, quello che vuole. Poi non faccio che c'è la fila giù, lo sta aspettando. Non fa niente, non ti preoccupare. Ciao, buona buonasera, ben sentito. Yeah, buonasera, no, io sono entrato per togliermi una curiosità, anzi, tu e Gianni una roba tettuglia, allora, confermatemi se tutti e due state usando lo stesso apparato, confermate, sì. Allora, io ho 70, Gianni mi sembra che se non ho spiegato un po' giusto dovrebbe essere 140. Perlomeno era difettoso, poi si è incazzato, poi l'ha provato a riparare, a quanto ho sentito io, poi non lo so se è vero o se non è vero. Io ho 70, ma è toccato, grazie a Dio, è sempre il solito. Abbiamo tu una curiosità, una cosa mia personale. Niente, io a Gianni lo sento bene, molto solamente questo spizio, perché già se rimani, la modulazione rimane cupa e di sottofondo hai quel rumore di talmente amplificato che sembra che sia una stanza vuota, è normale quello che deve averlo con l'apparato, nessuno te l'ha mai detto. Perché io stavo modulando da lontano, guarda adesso. È un passaggio più lungo. Guarda, il rumore della stanza vuota è perché ero lontano che stavo modulando, capito? Adesso però sei andato, però rimane molto cupa. Volevo dire solamente una curiosità, Antonio, tu come lo senti? Leggermente cupo? Sì, vabbè, il tempo è leggermente cupo, già lo sai anche tu. Lo sento bene io, cioè la ricezione mia in confronto con la chilo normale è totalmente differente. Allora, se tu passi qua a casa, per dire, ti faccio entrare a Gianni, che c'ha 140, io c'ho 80, noi siamo centrati. Il problema è con l'apparecchio, per dire, un FM500, io sono 548,000, quello che è. La cosa cambia di sezione, perché è banda larga, questa è banda leggermente più stretta. Cambia tutto, capito? Perlomeno, per come la penso io. Adesso non so se Gianni c'è d'accordo oppure no. Io la penso così, perlomeno ti sento Gianni lo sento così. Poi non so, gli altri magari diranno che la cosa non è differente, non cambia niente. Però guarda, cioè, da 140 su 80 la sezione cambia. Invece avere un apparecchio per dire un 39, un Tornado, un Midland, quello che è, sono apparecchi, sono ballattini, sono a banda larga e quindi la ricezione cambia totalmente, la verità. Ma tu mi hai così, anche tu ce l'avevi quel tipo di apparato, come mai la tua modulazione rimaneva molto più chiara? Non ti dava quell'effetto di leggermente cupo, come mai? Anche tu l'avevi, Antonio, o sbaglio? Tu è solamente una curiosità. Lì ti rispondo, perché allora io sto usando un Saverta, che le cose sono altamente diverse, invece Gianni mi sembra che usa l'MC60 e quindi la cosa cambia totalmente. Capito? Io ho i toni diversi da quelli del MC60 come microfono, perché purtroppo a me il MC60 non va bene, non ce la faccio usare con quel microfono, perché mi dà dei toni strani e quando l'ho usato una volta l'ho appeso e buttato la mombezza, la verità. E quindi ho comprato questo microfono qua, quello sono andato adesso io. E quindi è cambiato tutto, tonalità, timbrica e cose del genere, quindi cioè, mi ha migliorato la modulazione, tutto lì. Poi magari Gianni c'ha la modulazione per l'MC60, va bene per quello, e tutto lì. Non ti provo anche tu al limite, cioè ti faccio provare il limite in questi giorni, a me, quando sali a qua Sassari, ti do 80, lo prendo a casa tua e poi con tutti i microfoni, sia con uno sia con l'altro. Va bene, quello che è migliore. Vabbè, non peraltro, non trovo così da dubbio, perché poi dunque alla fine per avere una modulazione come l'aveva prima, che era pennello, dovrebbe cambiare il microfono, morale della favola, giusto? Vabbè, mi sono ascoltato e non mi sembra così brutta questa modulazione, come dici. Non mi sembra così brutta, è la timbrica. La timbrica di questo microfono è magari non mi si addice più di tanto, però non è brutta. Io l'ho sentita, bella amplificata, bella forte. Sto dicendo che è brutta, adesso stavo parlando e sottofondo sicuramente c'è qualche ventola, si sente abbastanza, io te la sento abbastanza la ventola. Però forse non sono abituato alla prima modulazione, la mia prima modulazione, eri una perfezione assoluta per il mio modo di ascoltare, attenzione, questo diciamo solamente quello che penso, quello che sento. Giustamente, voglio solamente questa curiosità, vedere se era, tra virgolette, un problema di microfono, che dovresti adattare un microfono per la tua voce, ecco, tutto lì. Dici sì, bella, bella, bella, ma secondo me era molto più bella l'altra, secondo me, questo lo volevo dire, sì, bella, bella, sì, 9 più 10 a casa, voglia, ce n'è per i maiali, però non è chiara, capito, la chiarezza non ce l'ha, dunque alla fin fine è questione di microfono, morale della favola. Ma l'apparecchio aveva una resistenza da cambiare, non era niente di cosa, capito? È cambiata, quindi l'apparecchio non ha più nulla. Allora, infatti, si vede che sta uscendo bene, non riesci più a tratti come prima, è tutta un'altra minenza. Non trovo solamente una curiosità. Il teatro, Gianni, quello che faccio due, cioè, a parte avere i toni medi, cioè i toni bassi, lui è abituato a sentirsi quando è stato un mecco, hai capito quello che ti voglio dire? Invece se tu metti per dire a parte quello che c'è nel microfono, ci metti un Saverta, la cosa cambia totalmente, si sentirebbe benissimo, per dire. Quello è il discorso lì. Ecco, tu Saverta cosa ce l'hai? Con tutti gli attacchi uguali a questi? sì, faceva uguale, perché c'è l'Olimpico, si sa detto, uguale, se non si dice, se senti qualcosa, non cambia niente. Qualche giorno lo proviamo, non devi vedere se adesso con l'apparecchio. E vieni, te lo prendi, qual è il problema? No, ancora una curiosità, solo per quello. Sì, comunque è quello il problema, perché io ho provato l'MC60, la vedeva dire cifu, come cifu io, con quel microfono. Infatti mi avevo fatto dare l'alimentatore, perché l'MC60 non è possibile usarlo io, era impossibile, faceva schifo, costava 200 euro ma faceva schifo, la verità. Allora mi sono aperto questo microfono qui, se l'erta lo pago 100.000 lire allora, che lo faceva la lira, la verità, e quindi cifu benissimo. Poi da io sono passato con quello di Hitler, questa cosa che mutava con Saletta, che lui un sacco di gente ha fatto Saletta per il chemudo, e pure fa benissimo, no? È un buon microfono, spendi poco, va molto molto veramente, molto bene. E poi ha fatto l'MC60 la verità, poi non lo so, uno è fissato a metterci per la linea, direi, compri la linea, compri tutto. Poi c'è quello che ha una modifica e cosa del genere, va bene lo stesso, cambi molto. Allora ti stavo dicendo lì, ma il Saletta tu lo alimenti a parte o c'è l'alimentazione dell'apparato? C'è l'alimentazione del baracchino io, il Saletta è alimentato direttamente dal baracchino, è l'unico che fa una cosa del genere, la verità, sono io. Senso, il microfono funziona subito, tramite il baracchino. Ah, comunque anche tu già l'hai stato registrato, io mi ricordo che tu eri qua a Adriano, quello lì, il tuo l'ha stato messo a posto lo stesso? No, io l'ho messo a posto, non l'ho messo a posto, mi hanno accennato, quando era stato registrato, con questo quattro due GB che dava fastidio a uno e fastidio all'altro. E quindi ho detto Adriano, passami lo GB perché mi stanno rompendo i coglioni. Ho fatto così, infatti lo GB perché l'ho cacciato. E ho fatto anche male, la verità. Quella volta io ho fatto anche, mi sono pentito, adesso mi metto nuovo a posto lo GB e lo prendo così. Perché l'apparecchio è nato con lo GB e basta. Ho fatto male a farlo disinserire. Adesso lo faccio di nuovo, voglio mettere a posto. Magari a uno di affatti non me l'ha spiegato un cazzo, la verità. Il che mi è nato con l'OGP, perché l'OGP ti fa tutto di male, basta. Ma io avevi messo, tu non è nato così, tu l'avevi modificato e ti piaceva così e te lo avevi lasciato, non l'avevi detto a nessuno. E invece poi ha dato fastidio, l'aveva fastidiata lì, ha fastidiato con l'altro, ha fatto qua l'altro l'hai rovinato, il secondo è nato con senza l'OGP e quello del genere, staccano quell'altro, me l'ha assinato per quasi un mese e mezzo, se ti dico di bene, perché io abitavo lì a Sassetti, alla fine ho detto la cosa. In pratica esce a scritto che c'è questo 4G, staccano, e ho tagliato la scuola, staccano per il momento, lo rimettiamo a posto e basta, anche lo rimettiamo a posto come era una volta e basta, perché non c'era proprio niente lo GMBIT, era solamente in macchina di testa e c'erano perché in tempo lo rilascia secondo la testa degli altri e cosa senza lo GMBIT io ci posso mettere la pediatra e la testa ecco dentro, non me ne fa più nulla, però l'apparecchio è mio e nasce così come l'ho modificato io, perché un apparecchio della Midland normale è nato con lo GMBIT e con la testa ecco, non esiste quello, oppure con la lampadina che si illuminava nelle manopole. Ognuno fa quello che vuole della cosa sua. Eppure lo prendo una sillata e ho dovuto mettere la testa a cugliate di corte. E quindi l'ho lasciato così come era, senza la GP più fa niente. Adesso lo mettevo come era prima. E quindi va bene così per me, perlomeno. Se poi non le piace non le prendere di cosa, così, che se ne frega. Passare Antonello. Ma scusa, non ce l'hai più il tuo 140 Antonello? No, non è il 140, io ce l'ho usato, sono adesso sto usando. Solo che quel periodo là, quando abitavo al centro storico, quando sentivo la GB fa tutto, mamma mia, tutti i corpi ce l'avevo. Poi si metteva a fischiare, poi c'era lo stazionario, vabbè, quando discorso del verso, cosa del genere, quindi staccano il bip, non hanno fatto attaccare il bip. Non la scheda è dentro, e la prossima si è dando voglia, adesso di nuovo la inserisco. e lo lascio inserita. L'apparecchio è nato così perché l'ho modificato io e basta, non è che devo andare a ritagliare. Cos'è? Che anche la modulazione, bisogna abituarsi alla timbrica. Che prima tu eri abituato a un certo tipo di timbrica, Antonio, poi adesso la timbrica ha cambiato e magari tu la senti cupa, l'altra addirittura mi ha fatto i complimenti perché la stavo uscendo, perché la stavo uscendo più col gas, perché dice che con l'eco non mi si apportava, non gli piaceva. E ognuno dice la sua. Avanti tu li avanti. Ciao, buonasera, ben sentito. No, comunque per il mio modo di parlare, già per me, per il mio modo di ascoltare, guarda, sì, era nato per te, quell'abbinamento era per te, secondo me. Poi non lo so gli altri, giustamente ognuno pensa in modo diverso, comunque per me eri perfetto, perfetto in ogni dettaglio, guarda, e l'eco ti diceva perfettamente, non c'era nessunissimo problema, secondo me. E c'è sempre il magno, non c'è problema per quello. Scusate, ciao, c'è prima, Silvia, Antonella, scusa, non entrato. Allora io dirò una cosa. Abituato il tubo bussia alla Carlona, un abbinamento del microfono amplificato, un baracchino, spinge, fa casino, fa fido, fa di basso, allora vediamo gli apparati, stiamo vedendo di cosa sia, e stiamo parlando di apparati che principalmente, essenzialmente sono nati per parlare in altre parti, due anni di Israele, a più di anni in Puglia, quindi le prestazioni e le capacità della timbrica con tutte le caratteristiche, non le notiamo noi in AM, capito? C'è chi ne ha messo meglio, non è quello il problema. Andare, ma guarda me, che ti dico? E niente già, cercando disperatamente qualche giornata da fare per andare avanti, tutto lì. Le giornate sono così ogni giorno, poi per il vento, la giornata, stava anche nevicando un po' così, poi ha smesso, poi per il vento sempre lo stesso. Sempre il solito assillo quotidiano, tutto lì. Speriamo bene anche a me, per questi dica. Siamo in un periodaccio, per carità, siamo perdere, ma forse è meglio, cambiamo discorso. Vabbè, comunque l'altro c'è per lavorando, sì. Sì. Mi ascolta. Quando ci sono, sì, sabato scorso c'ero, dipende dalle feste che organizzano. Se c'è una fetta in più mi chiama, se no no. Quando è aperto la dolce vita c'è già un'altra persona. Dunque invece quando c'è l'allenamento c'è bisogno di me, tutto lì. Adesso vediamo per sabato, non so se c'è qualcosa, mi devo informare, ma poi alla fine. Guarda, per le cose che si vedono ogni giorno meglio, guarda, meglio stare a casa, perché tanto è quella delinquenza minorile che è una cosa spaventosa, guarda. Lui è. No, non lo ci dà parte che non ne venimo, ma chi ci sta bisogna avere tutti i colori. Lo so che c'è. Purtroppo ci sono anche genitori che non seguono i figli, bisogna dirlo quello. Ricordiamo qua vedete. Vieni qua fa minorile. Questa stato dormiso? No, Antonio lavora in discoteca, non vede tutti i colori, ha detto, quando ragazzini che si bidano i bassini, i ghisciuli, i dati. 16 anni, attenzione, non di più, 16 anni, 16-15 anni. Guarda, una cosa veramente spaventosa, guarda, a volte guarda, ci rimango veramente a bocca aperta. Se mia figlia ha 15 anni non ce la manderò mai, ma non per non divertirsi, perché è veramente un ambiente per me, perché fa veramente schifo, guarda, ti giuro, è una cosa impressionante. Tanto non mi dipende anche dalla persona, se uno non vuole non lo fa. Perché io quando stavo in piazza ogni tanto si fermavano, fumo ti serve, eroero ti serve, quando ero ragazzino io, e dicevo di no, basta, punto. Purtroppo già tutte le persone, tutti i ragazzi che ci vanno, sedicenni, e uno peggio dell'altro. Mi hanno detto, ma io non sano nulla, perché come c'è loro al pullman che li portano al taxi, si pagano il taxi, hanno uno zaino dietro tutti quanti, tutti, e cominciano a bere vino, un litro e mezzo, messo nelle bottiglie di plastica. Poi cannoni, questo MD, questo impiegato di schifezza chimica, si fanno una merda completamente, 16 anni, e poi entrano dentro lì a sballarsi ancora di più con la musica, poco ti sembra. Non se ne salva uno, poi chi esce fuori a fumare, che sfuma sigaretta, no, cannoni a go-go. È una cosa impressionante, 16 anni, tutti, non se ne salva uno, guarda, uno mi già. A dirne uno, ne ho visto uno sano. Se uno fuma anche un cannone, di mamma. Sì, al problema c'è un 16 anni qualche accidente, a dire se ne fumano uno, no, 5, 6, una decina, poi si aggregano con altri e poi continuano a fumare lì, si passano le bottiglie e finché non le finiscono, si fanno bene, belli cremosi, stanno anche lì fuori al freddo alle 3 di notte, che si caricano bene e poi entrano dentro lì a ballare e hanno 16 anni, neanche 18 anni, 16 anni hanno. Cosa ci vuoi fare, non è un disoccupato tuo, no? Colpa di genitori più che altro, glielo sai anche tu, Antone. Quindi veramente c'è una colpa a futindini. Ma vabbè, non è questione di colpa, pensai anche, ma che questi qua hanno genitori ne hanno, arrivato a un certo punto non ne frega niente, li hanno fatto così tanto per togliersi il loro gusto e poi li hanno abbandonati così, è arrivato a un certo punto. La radice è dare dai genitori a tutto quello che fa. Ma come te fate? Allora di sì che tu rubicco. Come dico bua poca. Quanto non so le volte che io sono uscito con mia moglie a vedere dove frequentava Manuela quando era ragazzina e cosa. E una volta sono passati i giardini pubblici, ci è rimasta secca perché noi gli avevamo proibito di andare lì ai giardini, perché c'erano tutti i colori lì ai giardini, scippano, fanno, e ho detto non c'è andare lì Manuela. La avevamo pulita forte perché era andata lì con la sua greffa e poi era con questa greffa lì c'era uno con la cresta che aveva fatto una brutta impressione perché lì allora era come si chiamano tipo dark, roba così, ce l'hanno questa abitudine da ragazzine di vestirsi con le burche, con le anelli con la morte, mamma mia, ma carità, meno male che è passato. Vabbè, un esempio, anche io per dire, questo dei ragazzi a Ossi, diciamo, questo, hanno questo modo di vestire per loro personale, e ti dico che sono persone, sono ragazzi tranquilli, non vogliono discoteche, seguono la loro musica, e non li ho mai visti, la verità, usando per dire cannoni, ecco. Sì, qualche bicchierino in più già ho visto che se lo bevono, però diciamo, per fumare, per delle merdate, la verità, di quella gente lì non li ho mai conosciuto, e poi giustamente dipende da persona a persona, ma siamo le persone più tranquille, danno quell'impressione, ecco, non sono molti, dunque sono abbastanza minoranza, non li vedi così spesso in giro in questi locali come discoteche, per dire. C'è andare magari da Alex che ci dà un po' di musica, però rimane tutto nello contesto, compreso Antonio. Sì, esatto, è proprio così, la maggior parte, anzi tutti, quei pochi che sono rimasti col genere musicale vanno tutti ad Alex Bar, sì, poi giustamente sono andato anche tu, già è un ambiente abbastanza tranquillo e ognuno si diverte per i fatti suoi, risse e cose del genere, la verità non io ho mai visto in quel posto. Poi tu ti devo fare l'equipe, non riesco mai a pagare io, te lo immagini, cioè. Vabbè dai, e poi come c'è pure, proprio in fece, a divertimento. Il cugino del Leoncino, me lo sa. Esatto, sì, proprio lì sto dicendo già. Ragazzo, guarda, stupendo. Una persona proprio, guarda, eccezionale. Guarda, di una generosità e di una bontà, guarda, non me ne va a dirlo, guarda, un bravo ragazzo, tutto lì. Sto dicendo a Gianni che sì, proprio è parente di Leoncino, sì, proprio quello già. Quello è lo, quel bar attaccato alla discoteca, l'iPod. Avanti, Antone. Dopo. Avanti. Poca nella giacchetta, Giovanni Antò. Quello si è dormito. Ha sempre problemi di carogna a quest'ora. A Gogo, a Pisa, a Gogo. contatore si spenna, Ho capito. Stai uscendo un bel male adesso, cos'hai toccato? Male questo, sono 3, 4, 5, 6, basso, santo. Più giù. Si strappi, Antonio, leggermente strappi, è cupissimo il 6. Cupo? Strappi. Sempre male. Di chiedere, telefonare, di sfare, fare, spostare da una parte all'altra, cercare sempre qualcosettina, perché alla fine sono rimaste le briciole, dunque devi inseguire le briciole, non le sconforto perché non lo sono, giustamente non me lo posso permettere, c'è la famiglia molto più importante dello sconforto, però sai, ti fa passare un po' la voglia, ecco la verità. Poi ci sono un pochino di buon umore, abbiamo detto vaffanculo, dai, ci facciamo una chiacchieratina, tutto lì, diciamo la mia assenza è per quello, ecco, no, ti passa la voglia, un po' di tutto. Dai, ho tentato di stare bene, capito? Ho tentato di stare bene dopo le altre cose, verranno. Avere un po' di fede, un po' di fiducia e soprattutto pazienza. Ma pazienza, però, manna. Avanti, buon tutto. Avanti, dai. Allora, non so, le parole sono una cosa, infatti sono un'altra. Io sono un motorista, dico la verità. Antonello si dà da fare il dubbio per tutto, quindi non si può dare una colpa per la situazione qui adesso, ma sono sicuro che prima o poi trova un lavoro, anche perché è un operaio finito e cosa, quindi lo troverà prima o poi un lavoro. Io no, già sto sempre girando, prima o poi qualche cosettino uscirà, e per forza, poi si dice, chi la dura la vince, non è Gai. Ma il passo non usa Viagra. Quello è vero, però piano vedrai che le soddisfazioni arrivano. Comunque sia, dai, chi c'era anche Luca? No, oh, mi è attaccato al computer, da magna. C'è Pompeo che sta manovrando, avanti Pompeo. Sì, sono entrato. Indiferi. Dice andata, aspetta Castello. Magari. Ma sarei vecchio. Ah, tu hai fatto bene il chiedi. Ah, adesso, a me l'hai letto con chi vieni sei tu, come fai a dire? Qua la festa proprio non ce la sono, il bello è la festa era mese scorsa, si è messo a sparare il vigile notturno qua, sento proprio il pistola, in aria, non so, forse l'ha accettato questo, non posso dire, comunque sia, poi sono, sento la sirena e si è finito tutto. Che tipo si è ammazzato? Siccome non ci sono mai qualcuno, visto che ha sparato 5 colpi, la verità, e poi tutto buio. No, poi questa situazione, in questa occasione prima non è uscita nella nuova, vabbè, non ho sentito nulla nel giornale. La verità non sento proprio niente. Per me, ho fatto magari qualcuno che è entrato dentro lì alla Conti e poi ha sparato. 5 colpi e poi si è avviato, se no la verità non sento niente, però non accedo anche il ricevitore nel caso, la verità non c'è stata nessuna luce che altro, capito? Ma lo conosco, se è colpo, cosa non posso dire? Ah, sicuramente qualche guardia giurata lì che stava controllando l'ospedale, può darsi. E infatti è appunto per quello, comunque 5 colpi è sparati, poi non lo so, non mi si fa. È successo Alessio, ripeti che non ti ho seguito bene. Che la guardia giurata ha sparato 5 colpi verso le 10 di sera, poi tutto muto, non ho sentito niente, né ambulanza, né polizia, niente, nella verità, e quindi adesso non so se si è sparato qualcuno di qua, che magari sta pensando di entrare. Se ne è fuggito, questo non te lo so dire, la verità è comunque sia, li ho sentiti, sembravano attaccati, si è cagata la mano sopra addirittura qua, c'erano scubi e si è pisciato addosso. Ah, vabbè, ma cos'era una ripetizione? Si è capito se era un'arma da fuoco? Una ripetizione, 5 colpi, giuste. Ma può essere anche sì, allora già una cosa già... l'arma da fuoco, diciamo così, no? Diciamo l'arma da fuoco, potrebbe essere anche una pistola a salve, capito? Che fa lo stesso un bel morto, Ah, no, fregata, c'è la roba sua, tutti i figli. Magari aveva fatto, non lo so, quando facevano la botta di vigili notturni, si facevano magari i compleanno, cose del genere, e nel proprio lavoro piano e spalavano. Tanto non c'era neanche un collega di controllato, questo non te lo so dire. Comunque si è sentito 5 colpi sentiti, una testa all'altra. Ma ho capito. Ma via, stai attenti a fare il nome. Sto scherzando, sti cosi. Davvero. Tu muore i braccialetti di buoni, me. Scusi, ti ha pisciato il letto, così Antone? E ha dormito in terra? Oh, scusa, ha pisciato in terra, è bello quello. Mi ha pisciato anche la letto, perché è entrato in camera letto e si è pisciato addosso, perché il cane non sa come è fatto. Quindi le volte facendo un piatto e ha pisciato il normale, ha pisciato un po', sempre si è pisciato sopra letto uguale, l'aveva ammazzato la notte. Ma tutto mi è toccato in pratica pulire tutta la camera letto e questi spari, 5 spari ha fatto, uno attaccato all'altro, 5 colpi. Assolutamente, un cane già susciato. di cose di la verità, perché si nota, cioè lo sparo si nota, invece poi è stata magari un'altra cosa diversa. Comunque erano spari quelli, uno per l'altro, 5 colpi ha sparato. Sì, allora. Ho fatto non sei intervenuto di nessuno, non vedi che nessuno ha chiamato? Ma perché non ho visto nessuno, non ho visto un'ambulanza, né carabinieri, niente, non ho visto nessuno, meno che non abbia fatto magari qualche compleanno lui, sparato in aria, questo non te lo so dire. Comunque sia, il cane me lo sono tenuto io qua, e mi sono dovuto pulire il piscio. Per il cane, sai come è fatto? Quando sente temporale, i tuoni, come il genere, il cane si piscia sotto, anche, così anche gli spari. Per loro sono una cosa micidiale, spari per dire che gli butti un pezzardo giù da se sentita, non cambia nulla. Sì, io metto il cane mio, quando trovo le lampi e la dice già non so, solamente quando trova, mi esecuti 17-30 all'anche, si muore in mezzo all'anche e non si muove più proprio, addirittura si muove in piedi proprio all'imbraccio, no? Allora, mi ringrazio, no, e lo tocco, piano piano, mi china, e lo dico, cosa c'hai? Sono stato tranquillo, sai che? E io con il capo che sta rubando, ma vai da nascere, come sta di lì. Sono fatto scato, sono fatto scato. Cosa mi avete fatto di comprimi, ma sono curioso, insomma. Che cane c'hai? Tu lo che c'hai, credo che non è proprio originale, diciamo così, capito? È sottomarca. Però è bravissimo. E rimane un pochettino più grande di statura, però c'è sempre quella tipologia, capito? Sì, no, vabbè, quella della razza sinceramente non bisogna dare importanza, già sempre anche io c'ho un cane lo stesso a casa, ma le distanze non si fanno capire con i gesti, assolutamente, e guai se non li guardi come si fanno sentire, no, ma veramente gli manca a volte la parola a questi animali, appena c'è la possibilità ti chiamo e se il libro lo porto su e l'antenna ce l'hai per trasmettere. È una voglia che ce l'ho. È perfetto, va benissimo, avanti già. Va bene. Sinceramente, senti. rumore fa te, mamma mia. Era poi questa pezza del ventolaio. Che ventolaio? Dell'alimentatore? No, della panica, del 80. Che la pulisco appena appena adesso. Ma prima lo faceva, sicuramente si è azionato adesso così, perché stava scaldando. Lo fa così, quando lo scaldo lo fa, ogni tanto. Avanti, posto d'urra. Eia, sto qua. Eia, eia. Questo dottore Valtone si è preso il Midland? Eia, per il momento sì, ogni tanto anche il DAS. Sì, sì, il Midland. E io va benissimo qua. Cazzo, tu fai veramente un'ambulazione, sai, con quella... sembra una radio... Non può fare un balacchino così, compreso, una cosa più professionale. La verità che si dica, qui c'è un piccolo accorgimento di pompugno, se se lo ricorda pompugno. È stato fatto un piccolissimo accorgimento e basta. Va bene, sì, d'accordo. Tutto fa proprio come si vuol dire, no? Sono milioni di lire che servono per aumentare la qualità, ma perché? Sempre un Midland è quello premio. Sono tutti vicini di voi, sempre un Midland è, nel senso che, però è quello che tu vuoi far capire, è una modulazione che manco fa di un apparecchio di quelle caratteristiche, hai capito? Tu Antone, te lo ricordi cosa avevi fatto? Sì, se hai preso una persona a memoria. Io l'ho presa, sì, l'ho presa parecchio, non mi ho mai, non io. Figurati, insomma, neanche sto pensando alle modifiche di parte di baracchino, la verità, no, sono scese tutte le palle, questa storia qua, la verità, fai del bene, poi ce l'hai in culo, quindi a un certo punto mi è passata la voglia, no, non perché non me ne ricordo più, ma sono più di 20 giorni che non ragiono più, Antonè. Non so ma come cosa sta facendo ormai. Tu dici, guarda, ieri sera ho telefonato a uno, però si via lì 80 e 250 euro e mi ha detto che bene se lo ritira. Ormai sono deciso, guarda, neanche se uno vuole guardarlo. Io per me non riparte più niente, ormai no, non ho fatto più nulla, no, non ce la gioco più, capito, no, non mi sta più bene. Perché fatto che devo fare la vittoria e il coso, l'apparecchio suo, così mi dai soldi, no? Sono sotto il mondo la verità, non la gioco più. È già una settimana che non ce la faccio più ragionare con la testa. Sto facendo documenti, perché mi interessa la piccata un'altra cosa e basta, mi interessa altro. Baracchino al secondo piano, l'ho detto, no? Quindi, a meno che non sia qualche miracolo che cambia magari di cosa, ma sarà molto difficile. Quindi, l'ho presa così. Porca miseria, ci stiamo dando coraggio uno con l'altro, adesso tutti di nuovo, scendendo giù, ma non lo metti in dubbio, anche io metto, diciamo, come ci dice, anche tu i problemi, per carità, ma non per quello ti devi per dire, di sfogare sugli apparati, che poi un domani uno si tira su e te ne metti di quello che hai fatto, se non ne vuoi demutuare lo lasci lì fermo, se quel festo, proprio non ne voglio prendere l'accendi, no, qual è il problema? Per quel motivo li devi vendere, così poi alla fine te ne penti, non è un ragionamento logico, Antonè. Sì, non per il baracchino, per fare quello, no, c'è da proprio niente per il baracchino, a me proprio il baracchino non è fatto nulla, per altre cose, capito, ho fatto una domanda e perché me quello che mi hanno mandato, mi hanno mandato veramente quello che mi hanno anche detto. E qui mi sono trovato incolato, a un certo punto due sono le scelte, o faccio quella scelta o faccio l'altra, e quindi no, ho fatto la seconda scelta, capito, provvisoriamente mi sta bene così, no, c'è niente proprio per copare un nuovo baracchino, quanti ne voglio i baracchini, a 200 euro ce ne so, c'è l'FT7B, 120 euro, c'è il digital, l'FT101 da 200 euro, capito, quindi quando uno me lo prendo me lo compro un barattino, non è quello il problema, si potrebbe riadempiere altre cose, capito? E il discorso è quello lì. Il fatto che adesso è un periodo brutto, che quando vai a vendere le cose non riesci a venderle, e quindi è quello il problema, capito? No, c'è il garage, c'è la campagna, è un casino, nessuno c'ha soldi, sembra di essere in Grecia, cazzo. Invece quando le cose non le vedi più, cazzo, vengono te le chiedo, ma perché cazzo non è andato a me? Potete darla a me, ti avrei dato quello, ti avrei dato quello, ti capito il discorso. E quindi non mi piace avere la roba subito, poi dopodiché in seguito me la prenderò, se la tocca in culo, non me la avviserei il baracchino. E tu lo sai, anche a te la senti qualcosa, quindi non è fatto proprio niente. Vabbè, diciamo, ci sono altri problemi sottofondo, sì, no, finalmente d'accordo, a posto così allora. Per i barchi, la mia frustrazione a me di quello che dice la gente, a me di quello che entra esce dall'altra parte, quindi non è fatto proprio un cazzo, ma la verità, quando voglio me lo prendo un apparecchio, cioè di cose a buon prezzo che costano una cazzata, 100 euro, 120 euro, ce ne sono apparecchi negli anni che furono 100 euro, 100 watt, che fanno 3, 5, 3, 7, 14, 21, 28 e anche la 27, ce ne sono parecchi, quindi no, c'è da niente. C'è anche 101, l'FT 101, addirittura se ne avvo io 120 euro adesso, digital, quindi mi posso pigliare anche quello volendo, su internet, quindi no, non mi ha fatto nulla. Sono tutti uguali, con tutti i 100 watt. Quindi Swift è sempre collegato con quell'antenna, sì? Sì, con l'antenna piccolina, quello che ho io. Io sai che non attavo di cosa, vado su internet, c'è quello che calla felice, e quello te la gratis. Esatto, ma non c'è bisogno di dirlo. Io ho capito, sempre lì, dai, funziona sempre bene, non ti ha dato mai più problemi, no? Ci sono più intorno, dove vuoi vai? Ce ne sono di pochi, dove vuoi bacia, lo sai, di qua, come se tutti guardano il tablet. Allora Alessia, già lo sai, che parla col padre, col tablet, che è una cosa allucinante, sembra un mio telefonino, l'ho visto io, si connette al come si chiama, che te lo finisce e telefona gratis, fa la videochiamata gratis col telefonino 3. Figurati tu. Più di così ne vuoi. Ambrugia. Avanti Gianluca. Ehi, mamma. Cosa vogliate? Di là da Zermo, piano piano. E stavo dicendo, ancora diceva che era sapito che fai lì, vai a fare il coso al buscare lì. Ogni tanto mi chiamano per fare parcheggiatore, prima tanti anni fa ci lavoravo dentro, adesso a far parcheggiare, ecco. Sì, ma è meglio fuori secondo me che dentro, lo sai. E guarda, non credevo, 100.000 volte meglio, ti passa di più la serata, non ti fa la testa gonfia come un pallone, c'è sempre qualcosa che non va, dunque il tempo ti passa abbastanza veloce, sì. E poi tutta la notte chiacchierando, perché c'è sempre gente, dunque non rimane da solo. No, già va più che bene, ha voglia. Sì, diciamo l'unico problema è che ti prende un po' di freddo, là. Poi giustamente dipende anche dalle giornate, ti copri bene e ha voglia. Le 7, tanto lì si fa, dalle 11:30 fino alle 7 del mattino, ti volano. Ci viene Antone al Blue Star, sì. Antone. Ah, Gianlu. Corrente se n'è andata. No. C'è andata la corrente? No. Ah? Qui no. Stavo facendo degli sbalzi. Infatti non vi ho sentito. Io sono andato a tutti che la corrente è tranquilla. Non c'è nessun problema. Infatti poco. Sicuramente sì. Allora, aspetti, mi faccio la finestra, va. Allora, pure tutto acceso. Sicuramente è qualche delle loro zone. Bravo. Però qua non è mancata corrente. Gianluca, ma io sono al telefono, Gianluca. No, sono qua, tranquillo, vai avanti. Dai, come? Io no, credo che avete fatto una silenzio che l'ha mancata la corrente, perché anche qui stavano dando dei piccoli sbalzi. situazione